il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige, a cura di Emanuele Cenghiaro. Poco più di un anno fa avevamo incontrato nella nostra trasmissione il dottor Lorenzo Furlan, dirigente del settore ricerca agraria di Veneto Agricoltura, perché si era svolto di recente a quell'epoca un convegno dove si parlava di fitofarmaci, di pesticidi sistemici. Oggi lo incontriamo nuovamente perché vorremmo parlare sempre di agricoltura, ma in questo caso di agricoltura di precisione e anche di agricoltura integrata, due nuove prospettive per gli agricoltori. Anche in direzione di ridurre l'uso di fitofarmaci nei campi. Credo almeno che questa sia la prospettiva giusta. Lo chiediamo direttamente al dottor Furlan, che ringraziamo di essere con noi. Grazie, buongiorno a tutti. Buongiorno. Sì, vi aggiorno sui seminari che stiamo facendo a Legnaro presso la Corte Benedettina, uno dei tanti temi che stiamo affrontando per portare nel Veneto le innovazioni che la ricerca a livello mondiale sta dando. Uno di questi temi è l'agricoltura di precisione. Veneto Agricoltura con Enea, Maschio Gaspardo e TESAF dell'Università di Padova ha vinto un progetto LIFE che si chiama AgriCare, AgriCare, sulla precision farming, sull'agricoltura di precisione. È un progetto LIFE, quindi un progetto soprattutto dimostrativo, nel quale si vogliono evidenziare i vantaggi in termini tecnici, economici e ambientali dell'applicazione dell'agricoltura di precisione negli scenari agricoli futuri che si possono immaginare. Agricoltura no tillage, senza l'aratura, diciamo, senza le lavorazioni o pochissime lavorazioni, la minima lavorazione, quindi lavorazioni ridotte, l'agricoltura strip tillage solo su fasce e l'agricoltura convenzionale, quella l'aratura classica con le successive lavorazioni, l'affinamento del letto di semina e tutte le altre operazioni. Ecco, ma agricoltura di precisione esattamente quindi significa una... Agricoltura di precisione significa fare tutto precisamente. Noi in agricoltura sappiamo già che il terreno è molto variabile e normalmente facciamo la stessa cosa dappertutto, ogni metro è diverso, ma in realtà noi facciamo la stessa cosa un po' dappertutto. L'agricoltura di precisione vuol dire capire esattamente la variabilità, saperla interpretare e entrare dentro variando quello che si fa con precisione. I vantaggi sono due: se io con le macchine sanno esattamente dove vanno, perché c'è il GPS che le guida, cioè con il sistema RTK c'è una precisione ai 2 centimetri, quindi le macchine non si sovrappongono più quando, per esempio, quando faccio un trattamento diserbante o comunque con fitofarmaci, non vado più a sovrappormi perché sono molto preciso, quindi riduco la quantità di fitofarmaco che emettono nell'ambiente e evito anche una concentrazione eccessiva di fitofarmaco che può anche dare dei problemi di fitotossicità. Sono molto più preciso, lavoro più veloce e risparmio anche carburante. Quindi la precision farming, vantaggio numero uno, riduce l'impatto ambientale perché evita le sovrapposizioni, evita quindi movimenti inutili nel campo, riduce le quantità che si mettono nell'ambiente e riduce il rischio che le emissioni di fitofarmaci vadano non dove devono andare, al di fuori del campo coltivato. Un altro aspetto che mi sembra interessante delle ricerche che fate è quello anche di quando somministrare o fare queste lavorazioni in modo che portino il massimo risultato. L'altro vantaggio della precision farming è quello di sapere dove, per esempio, il fitofarmaco serve o dove non serve, quindi in base alle mappe di prescrizione che con l'agricoltura di precisione si possono fare, la macchina che entra nel campo, che è una macchina, diciamo, molto avanzata, innovativa, apre o chiude a seconda di dove è necessario, cosa che con le macchine, diciamo, tradizionali non è possibile. Quindi in questo modo possiamo parliamo di fitofarmaci, possiamo parlare anche di fertilizzanti, quindi il dosaggio variabile vuol dire dare al terreno e alle piante quello che effettivamente serve nei diversi punti a seconda delle loro caratteristiche, riducendo quindi la quantità che si mette e anche il rischio che questo vada nelle falde e si accumuli nei terreni inutilmente. Certo, la fermo per un attimo, abbiamo una breve pausa, a tra poco. Il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita. L'amore offende, l'amore si difende, comunque viene da sé. Ovunque vada l'amore come lava, brucia la vita che c'è. L'amore corre, l'amore ci rincorre e ci abbandona l'amore. Poi fa salire le ombre all'imbrunire, spegne la luce che c'è. Torniamo in linea con la trasmissione del quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di agricoltura di precisione con il dottor Lorenzo Furlan di Veneto Agricoltura. Non solo agricoltura di precisione, lei mi accennava anche alla questione di altre pratiche agricole che state portando avanti attraverso questi seminari, per esempio l'agricoltura integrata che unita all'agricoltura di precisione forse crea benefici sia a livello di risparmio ambientale, di tutela ambientale, che di risparmio economico molto, molto grande. Sì, noi nelle nostre aziende, dove dobbiamo cercare di far vedere l'innovazione per il futuro e le soluzioni per ridurre i costi di produzione o per migliorare le produzioni in generale, migliorando il reddito netto dell'azienda, al contempo riducendo l'impatto ambientale delle coltivazioni. Noi la chiamiamo agricoltura sostenibile, in alcuni casi si può chiamare produzione integrata, comunque il concetto è quello che gli interventi che vengono fatti dopo un'attenta valutazione e solo se, dove e quando servono. Questo in perfetta adesione ai principi della difesa integrata derivanti dalla direttiva europea numero 128 del 2009, che impongono appunto l'applicazione dei principi della difesa integrata sin dal gennaio 2014. E quindi siamo ormai in piena applicazione di questa direttiva e noi per ciascuna cultura cerchiamo di dare le soluzioni per applicarla al contempo mantenendo o migliorando il reddito netto delle aziende agricole. Ecco, l'ultima domanda poi lascio andare. Parlare di agricoltura di precisione, quindi di questo impiego di tecnologia, dà l'idea che sia una cosa molto costosa e abbordabile solo per grandi proprietari terrieri che abbiano coltivazioni enormi. È vero oppure no? Allora, effettivamente l'agricoltura di precisione richiede degli investimenti. Gli investimenti però sono a diversi livelli. Alcune soluzioni, per esempio quella della guida semiautomatica o di una guida parallela, ci sono soluzioni anche a basso costo, tipo soluzioni da 3-5 mila euro, quindi abbordabili anche per aziende non particolarmente grandi. Poi ci sono soluzioni sempre più avanzate e sempre, fra virgolette, più precise, che ovviamente richiedono investimenti più grandi. In questo caso bisogna dividere in due scenari. Un primo scenario, che è quello delle aziende di certe dimensioni, che ovviamente possono autonomamente valutare bene, vedere tutti i vantaggi e investire direttamente. Per altri scenari di zone dove le aziende agricole sono più frammentate e hanno dimensioni medie e piccole, il lavoro va fatto con i terzisti, perché la realtà è che grande parte di queste superfici sono lavorate dai terzisti. Quindi i terzisti però hanno anche una certa propensione all'innovazione e quindi lavorando insieme si possono introdurre anche nelle zone dove le aziende sono piccole. Nel sito di Veneto Agricoltura, www.venetoagricoltura.org, bollettino colture erbacee, entrando dentro si possono avere gli aggiornamenti in continuo sia sui seminari sia sulle informazioni per la difesa integrata e per l'applicazione delle tecniche agricole innovative. Benissimo, la ringrazio. Grazie a voi e stiamo a disposizione per ulteriori aggiornamenti. Andiamo a chiudere la trasmissione con tre brevi notizie. Domenica 1 marzo al Parco Etnografico di Lubano, in provincia di Padova, l'associazione Diversamente Bio organizza la giornata di approfondimento patate e solanina, con inizio alle ore 9. L'appuntamento del mattino è rivolto ad agricoltori che vogliono imparare a rigenerare, selezionare e coltivare responsabilmente varietà di patate tradizionali. Dalle ore 16 l'appuntamento è aperto a tutta la cittadinanza. Si parlerà di nutrizione, mangiare sano, con educazione alimentare, presentando ricerche ed analisi condotte per anni sulla solanina, una sostanza tossica autoprodotta dalle patate. Da confermare la presenza a info@diversamentebio.it. Parliamo di energia. Nel 2014 in Europa è stato installato più eolico che in carbone e gas messi insieme. In Italia invece il comparto eolico è crollato del 75% rispetto all'anno precedente. Questi sono gli ultimi dati dell'EWEA, l'European Wind Energy Industry, secondo la quale oggi l'eolico collegato alla rete dell'Unione Europea copre il 10% dei consumi totali di elettricità dell'Unione contro l'8% del 2013. In questo contesto l'Italia risulta quindi in controtendenza. In realtà il 77% di tutte le nuove installazioni del comparto in Europa si sono concentrate in soli quattro paesi: Germania, Gran Bretagna, Svezia e Francia. Infine si svolgerà il 26 febbraio a Venezia una manifestazione regionale promossa da Agriinsieme, il coordinamento tra CIA, Confagricoltura e Alleanza delle Cooperative Agroalimentari. Lo scopo è sensibilizzare la società civile e il mondo politico sui temi che stanno segnando profondamente il futuro delle nostre imprese agricole. Molte sono le criticità che verranno evidenziate durante la manifestazione, a partire dalla questione fiscale e dall'IMU, fino all'applicazione della riforma della PAC, la gestione del territorio, la produzione delle energie rinnovabili e la crisi dei mercati. Obiettivo è anche sollecitare il rilancio dei consumi dei prodotti agricoli, interni ed esteri, e rinsaldare la filiera, recuperando competitività e redditività. Anche per questa settimana è tutto, vi diamo appuntamento con il quadrifoglio alla prossima, ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.